quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Ma è possibile che sei un pieva così lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone. PD sento di lavorare per salvare il Partito Democratico, in particolare il Partito Democratico Romano, dal suo suicidio. Io lo voglio salvare dal suicidio. Quanto sei grande Roma! E abbiamo un commissario al partito, un commissario al comune, che è un prefetto, un altro prefetto che aiuta il primo prefetto commissario per la gestione della città, e poi, l'hai detto e l'hai ringraziati anche tu, abbiamo i subcommissari. Tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Inizia anche addirittura un dibattito se è opportuno tenere le elezioni nella città di Roma nell'anno 2016. Quale ulteriore sospensione della democrazia dobbiamo cercare nella nostra città? Veronica, vuoi cantare con noi? Colosseo. Vai, vai. No, ma come? Appena sveglia. Vedo la santità. Sei dietro. E son più vivo. E son più buono. Buono, no, non te lascio mai. Roma capoccia. Non fame, Roma capoccia, fame. Aurora, puoi cantare anche tu se vuoi, Cosa minchia stai ascoltando te? Giuseppe Verdi, la donna d'arco, Gian d'Arca. Dai, metti venditti, metti venditti, metti venditti, su, dai, metti. Signori, io ci sono nato a Roma, io l'ho scoperta. Ma non sai Roma capoccia? Martina, ma che la devo cantare io? Che? Non lo so. Cantate. C'è un attimo di timidezza, capisci? Sono sotto i verdi, cioè. Senti, cioè, con Giuseppe Verdi che risponde. Capisci? Abbiamo un attimo di problema, c'è l'infiltrazione fuori. Abbiamo fatto un attimo di pazzia totale, no, alle 6.33 minuti. Ho capito. No, ma... io ho cominciato già male, che ho letto il fatto stamattina. Eccoci qua. Ho bisogno di una dose di Giuseppe Verdi con la Jeanne d'Arc, che saprete, no? Apre la prima della scala. Certo. Oh, ora che ti ha fatto arrabbiare, eh? Oh. Ma un'intervista, no? Sì, l'ho letta. Allora, dal titolo. Mi odiano quelli della Lega perché mi sono innamorata di un profugo. Ma innamorati un po' di tutti i profughi che vuoi, bella convertita mia, che non sei altro. Su dai, per fare una paginata su Salvini avete tirato fuori sta qui della Valtellina. Siamo partiti così. Siamo partiti così. Fare i presidi tutte le volte davanti ai posti in cui siamo partiti. Rifugiati è un classico. Siamo partiti con la pazzia. Si converte, viva. Sei già convertita, dai, per questo. Siamo partiti con la pazzia. Ripartiamo il va pensiero. Ripartiamo il va pensiero. Il va pensiero. Ma no, ma. Oh. noi buzzurri eravamo su Venditti, ma insomma adesso va a pensare. Ci manca soltanto che ci mettiamo a cantare questa a quest'ora, cambiano immediatamente stazione. Comunque sì, ordine le 6:35 minuti. Almeno canteremo un po' di... Aspetta, ricominciamo le 6:35 minuti. La gente sta ancora dormendo, l'abbiamo svegliata in maniera un po' drammatica. Vado a prendere un caffè, quindi. Allora, questo è 24 mattino, i vostri messaggi al 349-238-6666. C'è bisogno di specificarlo stamattina, sì, perché sì, non si sa dove siamo. Non si sa dove siamo finiti, c'è Aurora Lussana, come avete capito. Vabbè, adesso abbiamo capito che c'è Aurora Rossana e c'è Veronica, e c'è Veronica Gentili. Oh, così facciamo tutte le cose per bene. Siamo fatte di fila. Abbiamo fatto un jukebox nei primi 4 minuti di. Allora, c'è Aurora Lussana, devo spiegare, molto innervosita perché si è svegliata e ha letto il Fatto Quotidiano sul ragazzi, fatto. Ve lo sconsiglio. La mattina alzatevi, ascoltate Radio Padania, ancora ogni tanto anche Milan, che va bene, sì, alle 6:30. Proprio raramente. Tanto è innocuo, canta, che problema c'è, va bene, dai. Ma proprio raramente, qualche volta. Adesso Milan. No, mai legge il Fatto Quotidiano. Mai, anche se, no, l'apertura è una bella apertura. Ma però spieghiamola, hai letto? Sì, ma quello c'ha ragione, bravi, spiegano bene come si è inconciati col governo di sinistra. Però attenzione, bravi. C'è un'intervista di Selvaggia Lucarelli a una donna della Valtellina che è la figlia dell'albergatore della Valtellina che vive ospita. Grazie ai finti profughi. Vabbè, insomma, che è vive. È incassato più o meno verosimilmente. Ma come l'ha finti? Messo lui, perché finti? Ancora con questa storia dei finti profughi. Pseudo profughi. Beh, finché non hanno ottenuto lo status di rifugiato politico, possono essere come quei due che hanno fatto saltare Parigi, che sono così cominciamo con sbarcati. Finché non c'è lo stato di rifugiato, sono tutti jihadisti potenziali. Ha detto. Cominciamo potenziale. Adesso a fare anche questa di mistificazione, perché la però aspetta, Veronica, fermi. A Leros dai barconi, no, sono sbarcati due terroristi. Ferme tutte, devo spiegare. Devo spiegare perché sennò nessuno capisce. Allora, questa donna, figlia dell'albergatore, si è innamorata di uno dei profughi arrivati, pakistano. No, non è un pakistano. Profugo, ancora in attesa della regolarizzazione. Mamma mia, vabbè, insomma, di un in uomo. In Pakistan quante guerre ci sono? È un uomo. Il sì. Paki vuol dire Puristan, il paese dei puri, che uno dice sono islamico, vivo in Pakistan. Aspetta, fammi spiegare. Allora, poi dopo fate ma tutte certo, le considerazioni infatti, del caso. Ma che si innamori di tutti i pakistani che vuole, questa fanciulla convertita, ma qual è il problema? Ferme, fatemi spiegare, poi fate tutti i commenti del caso. Allora, si è innamorata di questo uomo, è ora incinta e si è convertita all'Islam, e Selvaggia Lucarelli l'ha intervista. E Aurora, che problema c'è? Ma il titolo. Scusa, Lucarelli può intervistare chi vuole qual e tutte le convertite. Aspetta, del mondo ci titolo. Mancherebbe, lei racconta così che è molto meglio dei maschi italiani. E qual è sto titolo? Fammi come tutti sai che i musulmani sono migliori degli uomini italiani. Ah, perché ce l'ha con la Lega, anche nella storia d'amore vedono, mi odiano. No, vedono questo Salvini, è proprio un'ossessione del fatto, no? Che anche dietro questa bella storia d'amore. Guarda, mi dispiace tanto, ma tra tutte le ossessioni del fatto, a me Salvini sembra l'ultima, sinceramente. Ma insomma, guarda, c'è una paginata. Mi sembra che il peso che si dà a Salvini in questo momento sia pressoché pari a zero nello scenario della politica internazionale. No, perché c'è. Vi informo che se parlate insieme non si capisce niente. Scusaci. A casa. No, allora, Aurora dice che tutta l'intervista è per andare contro Salvini. Un po' di critica a Salvini c'è. Questa donna dice la Lega mi odia. Tu, Veronica, dice che non è vero. Dico assolutamente, dico solo che queste cose i leghisti le hanno fatte e che si sa benissimo che davanti a questi episodi ogni volta c'è lo stesso genere di polemica. Detto questo, se vogliamo dire che adesso Salvini è il protagonista della scena e della critica dei giornali di opposizione, ci sono due foto. Di no, insomma, in questo momento l'importanza di Salvini nello scenario politico locale e internazionale mi sembra pari a zero, insomma. Ma Aurora, io non capisco, cioè voglio dire, niente, hanno criticato Salvini, ma solo l'apertura, cioè lo fanno tutti i giorni per la verità, no. cosa ti infastidisce solo l'apertura oggi? Del giornale, evitate insomma, evitate quell'intervista lì, no, l'apertura no, deve esserti piaciuta, no? No, la prima pagina è eccellente, sì. Questa denuncia qui, come sono conciate le nostre forze dell'ordine, che hanno i proiettili fallati, i proiettili che non funzionano. La settimana scorsa c'è stato lo scandalo dei giubbotti antiproiettili, invece che sono vecchi e sono tutti vabbè, però questa non gli piace, questa intervista non gli piace, vabbè, ma non puoi titolare, faccio presente agli alti vertici. Salvini mi insulta perché amo un profugo nel mio hotel, su sembra Romeo e Giulia, ti sei innamorata del Pakistano, auguri figli maschi, no, una femminuccia, auguri figlie femmine, comunque il tempo della jihad è arrivato, 4 musulmani espulsi a Bologna, no, ecco, questa esatto, questa leggendo tutto il fatto quotidiano. Esatto, questa... no, sono passata al Corriere, la verità è questa, lo legge tutto per sentirsi proprio dentro, per sentirsi male, no, allora la questione è proprio questa, hanno espulso 4 presunti jihadisti da Bologna, il loro commento io me lo immagino così: grazie. Ma in ginocchio. Ma dai, ma scusa, trovi 4 potenziali jihadisti a Bologna, che fai? Li espelli? Cioè, questi espulsi dove? Gli arresti, almeno in Marocco, voglio dire, evviva, abbiamo rimesso in circolo potenziali 4 jihadisti. Siamo noi che abbiamo detto che erano potenziali jihadisti a Bologna. Risultato, uno li espelle. Ecco, dici, questa... l'alternativa qual è? La tenersele, aspettare di fare delle indagini e nel frattempo aspettare si facessero scoppiare? Che devi fare? Cioè, metterli in carcere? Io mi fido di più che sono tornati in Marocco, che mi sembra un paese serio, visto come sono stati utili anche nelle indagini su Parigi, l'intelligence marocchina. Ah, guarda, mi sembra un paese molto più emancipato dell'ormai Eurabia in cui viviamo noi. Ah, no, l'Eurabia, adesso non esagerare. Così, senza... Veronica, ma tu l'hai fatta una volta questa cosa, quando abbiamo fatto un discorso simile, la situazione era un po' diversa, sei andata in strada e hai abbracciato il primo e ci hai mandato una foto di un primo migrante, un profugo. Ah, quello era un grandissimo personaggio lui, sì, perché poi in questi giorni anche su Roma, no, se si deve iniziare a veicolare il terrore subito, torpignattare a quartiere in mano all'Islam, così, tanto le frasi dette tanto per, e su questo quindi quando andai l'anno scorso a fare un servizio lì, ho conosciuto la comunità islamica locale, un grandissimo personaggione, ti ricordi di cui mandai? Sì, come no, col barbone, certo. Un grande personaggio, e c'è una forte comunità, è vero, perché poi chiaramente lì dal punto di vista invece delle condizioni di vita è abbastanza tosta, c'è cioè, moltissimi stranieri, e non, le moschee. Ma non ti sei innamorata come quello del fatto? Era un po' grande per me, diciamo, sembrava mio nonno, sembrava Babbo Natale la renna, quindi non era possibile, però non metto limite alla provvidenza. Non metti limite alla provvidenza, ci mancherebbe. Ma scusa, altro, ecco, questo devo chiedere. Aurora. Di peggio che di un musulmano, cioè? No, così adesso era una frase carina ai miei fidanzati nella vita. Infatti, ma quanti ne hai avuti? Scusa, non per farti i fatti tuoi, tre. Veri tre. Così, insomma, un po' di. Divertissement. Io vivo qui a Roma, non faccio parte ancora non mi sono convertita, quindi per ora ho fatto insomma un po'. De che? La convertita cosa? No, ma di che? No, aspetta. No, ma anche quello potremmo aprire un altro capitolo. Che cosa? Dimmi, cosa vuoi no, sapere? No, hai fatto un po' di che? Ma sono convertita cosa? Vivo come una ragazza del mio tempo, si conoscono persone, ci si piace, non ci si piace, si decide così come vivere. Mamma mia, capito? È un po' in difficoltà, Veronica, per definire la propria vita. In difficoltà, capito? No, no. Con Roma Capoccia. No. No, strano. Diciamo che appunto. Comunque tre fidanzati. Sì, tre fidanzati. Ma adesso no, ma perché io ti faccio le domande del popolo, quelle che mi chiedono. Ma adesso Milan, sei fidanzata. Scusa, no, Aurora, poi dopo parliamo di te, sappiamo che sei sposata. No, è che voglio dire la tua attrazione verso Veronica assolutamente. Stavo facendo delle domande. No, nel senso, una ragazza splendida, ci mancherebbe. Ma telefonatevi. Ma sto facendo le domande che la gente mi pone. Ha deciso così, l'ha girato sul Marta Flavi come tipo di conduzione, sì, esatto, stamattina. Esatto. Vabbè, niente, anche qua dalla regia non mi aiutano, anche Carmelo Lauricella in regia, lo ringrazio, lo saluto. Niente, torniamo a parlare allora dell'attualità. Comunque, volevamo solo sapere se eri fidanzata, tutto qui, non è che quello sì. La domanda. Sei fidanzata? Ebbene sì. Oh, che bello. Oh, ebbene. Ebbene sì. Bello. Ma come si chiama, possiamo saperlo? Che mi quante cose vuoi sapere? No, no, va bene, basta. Mi sembra troppo. Allora, facciamo così, andiamo, basta, non chiedo più niente, prometto. Vita privata, facciamo pezzetti, no? Basta. Aurora, sappiamo che è sposata con l'onorevole Molteni della Lega. Brianzolo. Ma vivi sempre a Cantù? Preferisco Brianzoli ai pakistani. Cantù. Sì. Stamattina Cantù. Un problema, Cantù, che non ti dico. Perché? Anche tu fai un po' di radio 24 di servizio. No, nel senso mi succede? Hanno spostato il mercato contadino, quello chilometro zero di Coldiretti. È diventata chilometro 10? No, mi hanno messo in un'altra piazza, credo in piazza San Rocco, e volevo avvisare tutti i brianzoli che vanno al mercato contadino che mi hanno spostato il mercato stamattina. Beh, magari l'hanno avvicinato a quelli che vivono vicino a piazza San Rocco, però. Mi sa di sì, Vabbè, allora, abbandoniamo la questione del terrorismo che ha già creato un po' di problemi. Dopo il traffico vi voglio chiedere qualcosa di politica. Avete sentito che è tornato Marino, è rispuntato Marino, tra poco. Milan, a me non interessa il traffico, mica il tuo pal. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta. Che ti dico, il nuovo che avanza, Renzi ha sistemato il padre, la Boschi ha sistemato il padre, praticamente questo doveva essere il nuovo che avanza, e i figli che vengono a salvare quei vecchi massoni dei padri in un sistema consolidato e fisso, che vergogna. Ma la questione è seria, stiamoci accorti che sti camicazzi, voglio... Stiamoci accorti. No! Bassolino nata vota! No! Ciao Alessandro, niente, volevo semplicemente dire che la Gentiloni ha rotto, cioè è troppo logorante. Non so chi sia la Gentiloni. Noi abbiamo Veronica Gentili. Non lo so. Comunque saluto quelli che mi salutano da dovunque. Buongiorno a Katia da Bologna. Buongiorno. Sì, Alessandro, non fare il provolone, mi scrive un ascoltatore. Va bene. Saluto questo ascoltatore da Kong Kaen, nord-est della Thailandia. Federico, ci ascoltano anche da lì. Saluto. Questo che ci dice Aurora, te sei un amour. Vuoi salutarlo tu, Aurora? Questa baci. Minchia, che risveglio! Silvia, casalinga di Voghera, è rimasta un po' colpita da questa lotta. Da questa lotta. Un pochino più di verdi, come resistenza. Sì. Da questa lotta, anzi. Eravamo tutti un po' troppo carichi. Meno per l'orario. Anzi, direi che questo ascoltatore ci dice: la prossima volta voglio la lotta nel fango. Insomma, tra Veronica e Aurora. L'immaginario collettivo va subito lì, perché se due donne discutono è un attimo e lotta nel fango. Lo so, noi maschietti siamo così. L'amigdala, il cervello primordiale, facciamolo vivere, non rimuoviamolo. Vedi. Ma è difficile, in un'epoca che crea l'hashtag escile con appunto, per tirar fuori le tette, è difficile che si riesca a fare, che l'amigdala riesca a farlo scarso. Siamo l'Occidente, siamo liberi. Vabbè. Liberi e Burini c'è differenza. Sì, però. Questo è vero. Scusatemi. Questo è vero. Allora, devo dire questo. Mi sono dimenticato cosa dovevo dire. Non importa, vabbè, andiamo. Marino. Sì, Marino, Marino e Bassolino. Un canovaccio, chiedi regia. Vi piace questa idea del PD? Che sicuramente no, a entrambe. Tu, Aurora, che ne pensi del PD che blocca, cambia le regole per bloccare Bassolino e Marino? Bassolino, anzi, lo vogliamo sentire, Bassolino. Senti qua, Bassolino. Le regole non si cambiano in corso d'opera, prima che il treno si fosse messo in cammino. È evidente, ma questo lo riconoscono tutti, che ora non si può fare. Non si cambiano le regole, Aurora, capisci? Se il PD della rottamazione e delle Leopolde, delle Boschi, dei Gigli Magici c'ha paura di un Bassolino, gli conviene cambiare le regole in corso, sospendere la democrazia e insomma salvare il salvabile. C'hanno paura di Bassolino, che te devo dire? Hanno paura di Bassolino. Effettivamente questa cosa mi incuriosisce. Devo dire, anche te, Veronica, sarai la migliore amica di Renzi, si sa. È chiaro, come sempre. No, però diciamo che in questo caso dispiace comunque quando ci sono problemi molto più cospicui di politica internazionale fare polemiche su queste cose. Però mi dispiace, ma ha ragione Bassolino, le regole non si cambiano in corsa, e se il PD di maggioranza, se il PD renziano ha un problema locale, perché questo ormai insomma non è un segreto per nessuno, non riesce a risolverlo, questo è un conflitto forte che si porta dietro, dai Marino ai Bassolino, ma così via, anche con i De Luca e personaggetta. Emiliano, tutti, ci sono gente che Renzi non avrebbe voluto, però purtroppo esistono ancora, li possiamo chiamare potentati locali con una connotazione dispregiativa, li possiamo far fuori anche. Come, cambiando le regole delle primarie in corso d'opera? No, non lo so, era un'idea. Proprio fisicamente. Cioè, tu volevi farti esplodere tu con Bassolino? No, quello assolutamente no, però effettivamente la situazione politica è un po' comica rispetto a quello che succede nel mondo, forse anche un po' nel centrodestra. Ecco quello che volevo dire, che Veronica Gentili ci ha mandato il selfie consueto, adesso lo ritwittiamo. No, ecco, oggi mi sembra molto molto giusto che anche Aurora ci corrisponda, infatti. Anche a Aurora, tutte le volte che vieni ospite, ho la spesa al mercato e facci la foto della spesa di due zucchine, e ci accontentiamo di quello. Due zucchine comprate da Aurora Lussana, va bene, fai. No, Aurora, tu non puoi sottrarti, questo non è da te. Non sono fotogenica come te, nel senso, mica vogliamo fare un concorso. Narcisismo edonista della twitterata mattutina. Ma devi fare una foto, fai una foto delle tue ciabatte, a noi va benissimo, è un segno della vicinanza, della comunanza, della fratellanza, no? Cosa, sì. Niente, vabbè. È la nostra risposta alla lotta del fango. Niente, un ascoltatore ci scrive: voglio il selfie di Aurora, ma è inutile, non capisce, non lo farà. Allora la sistemiamo così. Sentite Berlusconi, che è andata alla scuola, io lo devo dire 5 volte sempre, la scuola politica della Lega, la scuola di formazione politica della Lega. Veronica, ripetilo anche tu. La scuola di formazione importante. Non ce la faccio, dai. Dal titolo Penso, conosco, creo. Ecco. Com'è che si chiama? Penso, conosco, creo. Penso, conosco, creo, la scuola di formazione politica della Lega. Berlusconi. Vabbè, ma allora studiatevi il Corano. Senti, devo dire io, ragazzi. Cosa c'entra Berlusconi? Non lo so, Berlusconi. Non lo so. Senti. Da soli non contate niente. Senti. La signora Meloni, anche lei cosciente che da sola non conta niente. Perché capito cosa vi ha detto Berlusconi? Da soli non contate niente. È venuto lì e ve le ha cantate. Però gliel'ha proprio cantate lì. Sì, te le ha cantate. Ma cosa gli ha cantato? Che il povero Romani, che la vergogna ormai è tale che se l'è presa con la D'Urso, no, capito? No, no, vabbè, ma che c'entra questo? No, ve le ha cantate, cara Aurora. Questo è. Sì, no, vabbè, così un intervento di pura trascendenza. No, a parte che domenica c'ero anch'io,